Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Le feste si avvicinano e le occasioni di brindare si moltiplicano, si brinda con gli amici, con i colleghi, per piacere, per dovere. Questo è il momento dell'anno in cui le occasioni conviviali si intensificano. Ma perché si fa cin cin? Da che cosa deriva questa usanza? Ne parliamo con Federica Brunini, giornalista e autrice di Travel Therapy, edito da Morellini. Ciao Federica, cin cin a te. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come mai si fa cin cin? Si fa cin cin e dobbiamo questo suono così carino del brindisi ai nostri amici cinesi, perché è da lì che è nato questa usanza, questo modo di dire. In realtà in cinese cin cin non significa brindisi, ma significa prego, però evidentemente veniva usato tra i marinai di Canton a suo tempo come forma di saluto e da lì è stato poi esportato nei porti europei ed è piaciuto e ce lo siamo portati a casa, come gli spaghetti insomma. Quindi prego prego vorrebbe dire in realtà. Esatto, prego prego. In realtà però quando brindano ovviamente i cinesi non utilizzano lo stesso cin cin che utilizziamo noi, ma hanno tutt'altro modo di dire, ovviamente io non saprei pronunciarlo bene, però suona più o meno come Yung Sing Chan Bei, questo è un po' il modo di dire prosit. Ecco, ovviamente ci sono dei modi di dire molto, molto divertenti, no? Nel senso che per esempio noi siamo abituati a pensare che cin cin sia internazionale, in realtà non è così, cin cin è proprio tipicamente italiano, al massimo francese. Devo dire che a giocare sulla confusione è stata anche quella sitcom americana che sicuramente ricorderai e molti dei nostri ascoltatori ricorderanno, che era proprio cin cin, e questo ci ha convinto che cin cin fosse utilizzato anche negli Stati Uniti. In realtà era la traduzione, perché in inglese brindisi si dice cheers, quindi quando loro fanno, come dire, tintinnare i bicchieri dicono cheers, che vuol dire anche saluti, salute, allegria, insomma, e tutto questo ben augurio che la parola si porta dietro. Quindi paese che vai, cin cin, che devi saper fare, saper augurare. Assolutamente, a me per esempio, che sai che sono l'amante dei paesi nordici europei e in particolare della Svezia, piace molto il brindisi svedese, che è questo skull anche in danese, che di solito veniva accompagnato dalla bere, da questa tazza ovviamente di corno che ci riporta al tempo dei vichinghi. Su di me questa cosa esercita un fascino pazzesco, che ti devo dire. Però dobbiamo stare attenti a non dire cin cin in Giappone, perché invece cin cin in Giappone suona purtroppo come un'altra parola che indica l'organo sessuale maschile, quindi facciamo molta attenzione, cerchiamo di essere molto bravi nel distinguere i cinesi dai giapponesi, non mettiamoli tutti in una stessa famiglia e stiamo molto attenti, altrimenti rischiamo di venire, come dire, fraintesi nel momento del brindisi. E poi c'è questo modo di dire coreano che è molto carino, che è kanpei, che è molto carino, questa parola che fa un po' cartone animato giapponese, per cui ti scoli i tuoi bicchierini e dici kanpei, ed io lo trovo molto divertente. Grazie Federica che ci hai fatto fare questo viaggio attraverso i brindisi un po' di tutto il mondo. Auguri, auguri anche a te. Auguri e cin cin. Cin cin, e spesso il brindisi viene fatto proprio per accompagnare, per spacchettare i regali. Anch'io oggi ho un regalo per voi, naturalmente è Radio 24, ma non voglio svelarvi la sorpresa. Seguitemi e al termine della trasmissione sveleremo il regalo che sarà fatto ad uno dei nostri ascoltatori. Adesso che sappiamo la derivazione di questa usanza, cerchiamo però di brindare, ma brindare in modo più consapevole, puntando più alla qualità che alla quantità. Detto tra noi però, quanti brindisi avete già fatto e quanti ve ne concedete nel corso di una serata di auguri? 800 24 00 24, date i vostri numeri e intanto io saluto il professor Massimo Colombo, direttore della cattedra di gastroenterologia dell'Università di Milano e del Dipartimento di Medicina dell'Ospedale Policlinico di Milano. Professore, bentornato, sono molto contenta di averla in linea con noi. Grazie, buongiorno dottoressa Carbone, molto carina. Professore, andiamo ai brindisi, Natale sia buono, quanti possiamo permettercene? Allora, premetto, non voglio guastare il clima festoso in cui giustamente lei ha esordito nella sua trasmissione, però siccome la popolazione mondiale è variegata, è diversa in termini di suscettibilità alle sostanze tossiche, e siccome nell'ottimo vino che noi consumiamo è presente etanolo, che è una sostanza tossica per il fegato, può capitare che dosi piccole facciano male ad alcuni e siano meglio tollerate da altri. Allora la comunità scientifica internazionale si è data una regola e definisce come dose potenzialmente lesiva per il fegato nella donna, che è un po' più delicata da questo punto di vista, il consumo di 25 grammi di etanolo al giorno, che corrisponde a due bicchieri di circa 100 millilitri di un vino tradizionale. L'uomo ha una franchigia, può bere 3 unità, cioè fino a 40 grammi di etanolo al giorno, prima di raggiungere il livello considerato pericoloso. Con questo però, se mi permette, caveat. Sì. Che queste misure sono considerate pericolose se vengono consumate quotidianamente per almeno 5 anni. Allora la persona cade nel rischio di far male al fegato. Ecco, quindi, mentre per il brindisi, per gli auguri, possiamo assolutamente brindare, assolutamente, brindando bene, puntando, come dicevo, alla qualità, come ci insegna il nostro gastronauta, che ho il piacere di avere in linea, Davide. Buona giornata a tutti. Senti Davide, il cin cin si fa sempre con le bollicine? Ma è una domanda, o insomma è una mezza domanda, io lo faccio con le bollicine, ma è sempre così? Credo che sia ormai una tradizione secolare, anche in certe illustrazioni dell'Ottocento si vedeva diciamo il classico bicchiere da bollicine, quindi penso proprio di sì. Io oltre la mia età non vado, però penso proprio che fosse così. Senti, mi dai un paio di consigli per un brindisi fatto a regola d'arte? Ad esempio, scelta, non fatevi ingannare dal prezzo. No, dunque il primo punto è che secondo me la gente molte volte pensa che le cose più chiare siano le più buone, le migliori. Non è così. Non è così, bisogna avere un po' l'accortezza di magari in qualche caso farsi consigliare anche dal notecario o da un esperto di vini. E secondo, anche avere così l'oculatezza di andare a verificare negli scaffali, di vedere un po', magari di individuare un territorio per le bollicine italiane. Vabbè, quello francese ce n'è uno solo, ma per le bollicine italiane sono più di uno, perché c'è Franciacorta, c'è Trento Doc e c'è l'Oltrepò Pavese, poi ci sono anche molti bravi produttori di bollicine sparsi per l'Italia. Quanto siamo bravi! In Piemonte, in Piemonte per esempio, quindi sì, abbiamo fatto dei grandi passi. Sì, siamo bravi, siamo forti. Senti, bicchiere, flutto o coppa? Oh, ma per carità, ne per flutto, carità. Io devo dire che mi viene da ridere quando vedo la gente bere in questi bicchierini stretti, dove magari alcuni col naso lungo manco riescono a sentire il profumo. Io sono per il bicchiere molto largo, addirittura vado anche oltre il bicchiere da vino bianco, perché siccome le bollicine devono respirare e devono così respirare anche tanto, ossigenarsi, io vado per un bel bicchiere, non dico un ballon perché è troppo grande, però sicuramente un bicchiere da vino, ma da vino bianco, proprio forse il più grande possibile, e credo che questo sia il miglior modo per bere le bollicine. Il resto veramente, la coppa poi non ne parliamo, cioè la coppa può andare bene per il moscato, quindi per una bollicina particolare dolce. La frutta per niente, la frutta secondo me è un bicchiere inutile. Buttiamolo. Certo, l'ultimo dell'anno, ben augurante. Allora, via le frutte. Via le frutte, sì. Allora, il brindisi comunque è meglio sempre farlo dopo aver mangiato qualche cosina, si assapora anche meglio. Ecco, anche il professor Colombo è contento così, perché l'alcol a stomaco vuoto ai medici non piace. Beh, diciamo subito che mai bere bollicine con metodo classico con i dolci, mai. Cioè, è una contraddizione in termini. Cioè, coi dolci probabilmente i moscati vanno bene, questi vanno bene perché sono dolci, non dolcissimi, però scegliere un moscato dolce. E invece il brindisi, diciamo a mezzanotte, sicuramente forse qualcosa si è già mangiato, si può fare sicuramente. Insomma. Cin cin, Davide, ma intanto noi ci sentiamo tutti i giorni. Bene. Ciao, grazie. Allora, ciao, presto. Grazie ciao. Mille. Ciao. La primavera esiste la mattina, dalla mia cucina vedo il mondo tondo. sempre diverso, sempre ogni mattina, sì, dal giorno prima, dal giorno prima. Con in bocca un gusto amaro che fa schifo, chissà cos'è stato quello che ho bevuto. Sto dal letto e penso al povero mio fegato, fegato, fegato spappolato. Professor Colombo, mi dica la verità, vorrei fare con oggi, con lei, per il fegato un gioco del se fosse una persona, sarebbe astemio? Ma in linea di principio probabilmente sì, però calato nella realtà quotidiana, il fegato è continuamente sfidato da sostanze tossiche che lui è costretto a trasformare, e sono presenti queste sostanze in molti alimenti, nell'aria, e poi molti di noi consumano farmaci che tendenzialmente sono epatolesivi. Quindi l'alcol risponde a questa logica e di conseguenza il fegato si è abituato a gestire l'alcol. Insomma, poi tra l'altro il fegato è un grande lavoratore, sopporta e lo fa spesso anche in silenzio, si lamenta raramente anche degli strapazzi a cui è sottoposto. Sì, questo, dottoressa, da un lato è un beneficio, dall'altro è un rischio. Il beneficio è nel senso che se veniamo colpiti da una malattia acuta severa del fegato che distrugge fino a 2/3 dell'organo, noi non moriamo e sopravviviamo, perché il fegato ha un'enorme capacità di compenso funzionale, cioè io e lei in questo momento viviamo utilizzando il 20% del nostro fegato. Viceversa, se siamo colpiti da una malattia subdola che impiega molti anni a ledere il fegato, le cosiddette malattie croniche, virus, sì, o un abuso di alcol cronico, il paziente non se ne accorge molto spesso, fin tanto che non demolisce la parte centrale funzionale del fegato, il core business di quel 20-25%, e solo allora, sviluppando le complicanze come l'itterizia o l'accumulo di acqua nella peritoneo, l'ascite, si accorge drammaticamente di avere una malattia cronica grave, quindi un beneficio ma anche un rischio. Che ha un po' il risvolto della medaglia. Allora, se il fegato, insomma, non è proprio astemio ma quasi, insomma, si concederebbe volentieri un brindisi ogni tanto, cosa fa il cuore? Che cosa dice? In linea con noi abbiamo il professor Piero Montorsi del Centro Cardiologico Monzino di Milano. Buongiorno professor Montorsi. Nicoletta, buongiorno. Allora, brindisi a Natale, ma anche prima di Natale, a Capodanno, per festeggiare l'anno nuovo, il cuore contento? Il cuore contento nella misura, certo. Virtus, sicuramente ormai ci sono dei dati abbastanza sicuri che dicono che bere una giusta quantità di vino, soprattutto il vino rosso, fa bene al cuore in termini, sotto tanti punti di vista, soprattutto nella prevenzione della cardiopatia ischemica, quindi delle malattie cardiovascolari. Il problema, come sempre, è quanto bisogna bere per rimanere nella giusta posizione. Allora, l'American Heart Association dice nelle sue ultime linee guida di bere uno o due drink per l'uomo e un drink per la donna al giorno di vino rosso, e facendo così si hanno degli effetti sicuramente positivi sul sistema cardiovascolare, sulla prevenzione della malattia coronarica e tanti altri effetti collaterali ma altrettanto importanti. Questo ci piace molto, grazie professor Montorsi, brinderemo pensando a lei, naturalmente con moderazione. Sempre così. Sempre con moderazione. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà. L'overdose improvvisa di carboidrati raffinati non fa altro che aumentare la tua fame. Arriva il cameriere che, a distanza di sicurezza perché ha sinceramente paura, prende la comanda e tu ordini tutto insieme, così non stai a fare dei viaggi inutili. Pre-antipasto, antipasto, post-antipasto. Primo, secondo, terzo, quarto. Carrello degli arrosti, carrello dei bolliti con salse, fantasia di dessert. Cameriere arriva e ti fa: capo! Sarcastico, prende ancora qualcosa? Tu riemergi dal coma, lo guardi e, perdendo l'ultimo brandello di dignità umana, rispondi con una frase che rimarrà scolpita negli annali della ristorazione mondiale: un ananas che brucia i grassi. Ma che bontà, ma che cosa questa roba? Professor Colombo, tra brindisi, cene, pranzi, qualche chilo in più noi lo mettiamo in conto, e anche il nostro fegato ha un po' la tendenza a ingrassare, diventa, usando un termine tecnico, steatosico. Infatti steatosi è il termine che si usa per dire che il fegato è grasso. È un problema molto diffuso che i medici preoccupa un po'. Perché, professore, il grasso in più lo avvelena o lo affatica? Dunque, il fegato è steatosico quando accumula i cosiddetti trigliceridi neutri e tendenzialmente è un meccanismo di difesa di quest'organo che si vede arrivare una serie di sostanze, in particolare i cosiddetti acidi grassi liberi, che sono infiammatori. Per proteggersi da loro, li coniuga con dello zucchero e fabbrica il trigliceride. Da dove arrivano questi acidi grassi liberi? Arrivano dalla metabolizzazione, dalla trasformazione metabolica del grasso periviscerale, che è quello pericoloso, cioè il grasso che sta intorno ai visceri dell'addome, mentre il grasso che noi abbiamo e che esteticamente magari non ci piace di più, quello è meno pericoloso. Allora, mantenere il peso corporeo implica essere anche capaci di mantenere una circonferenza fisiologica, eliminando questo grasso periviscerale, che è la fonte di tutti i guai per il fegato. Noi diagnostichiamo la steatosi oggi, convenzionalmente, con la ecografia del fegato, la quale però diventa diagnostica, cioè identifica la steatosi, quando più del 30% delle cellule epatiche sono grasse, infarcite di trigliceridi. Per i pazienti che hanno un infarcimento minore non sappiamo fare la diagnosi, ma la probabilità di un danno epatico questi pazienti comunque ce l'hanno. Quindi, professor Colombo, dato che il fegato si è ingrassato, lo scopriamo spesso per caso e a volte non si scopre del tutto per caso, quando il nostro medico ci prescrive degli esami, possiamo capire di magari quali sono le persone che possono rischiare di più? Sicuramente quelle, le persone sovrappeso. Allora, la steatosi epatica è un evento che identifica un rischio cosiddetto metabolico. La steatosi epatica è frequentemente riscontrata nei pazienti diabetici, qualche milione di italiani, nei pazienti sovrappeso, ragionevole, nei pazienti che hanno dislipidemia, cioè colesterolo alto nel sangue, spesso per origine familiare, magari sono anche magri. E anche i pazienti con l'ipertensione arteriosa, indipendentemente dal loro peso corporeo, possono avere steatosi. Perché? Perché alla base di queste quattro condizioni cliniche c'è un disturbo metabolico che si chiama insulinoresistenza, cioè per tenere un bilancio metabolico corretto dell'insulina, che è un ormone per noi vitale, siamo costretti, alcuni di noi, a produrne troppa. E questo, perché abbiamo gli organi resistenti, e questo ci espone a quel rischio. Allora, 800 24 00 24, vi invito a chiamare, perché oggi ci occupiamo come sempre della nostra salute. Siamo partiti dai brindisi, siamo arrivati al fegato e non solo, cerchiamo di affrontare queste vacanze di Natale, occasioni, speriamo che ce ne siano tante, di fare qualche brindisi, di stare con gli amici, di tirarci un po' sul morale. Tutto all'insegna del benessere, quindi se avete qualche dubbio, se volete sciogliere, magari trovare la risposta ad una vostra domanda, se pensate che il vostro fegato sia un po' strapazzato dal vostro stile di vita, molti mi stanno scrivendo, mi sento male al fegato, il dottore mi ha detto che ho il fegato ingrossato, come devo fare? Noi siamo qui, 800 24 00 24, e vi ricordo che in chiusura abbiamo un regalo per voi. Essere e benessere. Eccoci qui, siamo tornati insieme, professor Colombo, i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo, chiamando, perché vogliamo prenderci cura del nostro fegato, stiamo facendo un po' il gioco del se fosse, abbiamo detto che se fosse una persona sarebbe sicuramente un gran lavoratore, che tende a lamentarsi poco e quando lo fa proprio quando la situazione è molto seria, si concede un brindisi ogni tanto, è una persona che, voglio dire, gusta la vita, no? Al fegato, il fegato è una persona a cui piace la moderazione. Possiamo descriverlo così, professor Colombo? Senz'altro, d'accordo. Augusto ci chiama dalla provincia di Frosinone. Buongiorno Augusto, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei, auguri. Grazie anche a voi. Se vuole arrivare alla sua domanda. Allora sì. Allora, chiedevo al professore se è vero che una volta ogni tanto mangiare del fritto fa bene al fegato, nel senso che lo mette in movimento. Sì. E poi un consiglio pratico per poterlo eventualmente disintossicare dopo queste feste. Grazie Augusto. Mi grazie, piace la cosa del fritto, così gli diamo uno, no? Lo mettiamo subito alla prova, è una specie di terapia d'urto raccontata come ce la descrive Augusto. Professor Colombo. Sì, buongiorno innanzitutto. No, il fritto disturba la fase di digestione e quindi coinvolge stomaco, duodeno, ma al fegato eventualmente arrivano gli alimenti degradati in sostanze semplici, quindi non riesce a distinguere se quell'arrivo è da un fritto, da un bollito, da un crudo. Il fritto tendenzialmente non è una fantastica idea perché sono alimenti degradati e deformati da elevate forme di temperatura. Dopo le feste di Natale tutti noi ci rimettiamo in sesto rapidamente con una dieta equilibrata, leggera e, mi spiace dirlo, ma tendenzialmente povera di bevande alcoliche. Sì, quindi insomma possiamo un po' esagerare, poi insomma d'altra parte non sono solo gli incontri conviviali delle feste a mettere in difficoltà il nostro fegato, ma chi volesse evitare di salutare l'anno nuovo un po' appesantito può applicare la regola del 5, che vi racconteremo tra poco, è proprio stata appositamente studiata dagli esperti della Nutrition Foundation of Italy e ve la racconteremo tra poco, anzi subito, perché in linea con noi abbiamo il professor Andrea Poli, che è direttore scientifico della Nutrition Foundation of Italy. Buongiorno professor Poli. Buongiorno a voi. Temevo di averla persa. Allora, i nostri ascoltatori ci stanno seguendo chiedendo informazioni su come non appesantire il loro fegato durante le feste, insomma di farlo lavorare bene senza metterlo in difficoltà, ma ci sono anche tanti dei miei ascoltatori che mi dicono: metto già in conto almeno 3 kg che dovrò smaltire poi a gennaio, ahimè. Allora si può giocare d'anticipo, come suggerite voi, con la regola del 5. Sì. Certo. Ce la spiega? Sì, innanzitutto la stima dei 3 kg è probabilmente un po' pessimistica. Noi abbiamo fatto 4 conti e abbiamo immaginato che il 5 torna molto spesso in questi ragionamenti, perché abbiamo immaginato che ci fossero 5 extrapasti, 3 che abbiamo considerato mega, per esempio la vigilia di Natale, il cenone tipico di San Silvestro, e un paio magari invece macro, non necessariamente mega, che possono essere distribuiti in questo periodo, occasioni di incontro con parenti, con amici. O quelle degli avanzi, perché si o quelle degli avanzi che sono le più belle, secondo me. Certo. Complessivamente si può stimare che siano circa 5.000 calorie in eccesso rispetto al fabbisogno ordinario. Come neutralizzare l'effetto che altrimenti rischia di essere 5.000 calorie sono circa un chilo grosso, in realtà un po' di meno. 8 etti. Diciamo che il grasso contiene 9 calorie, per cui un chilo di grasso sarebbero 9.000 calorie da un punto di vista formale. In realtà poi c'è un po' di acqua che si accumula nel tessuto adiposo, per cui praticamente andiamo a spanne. 7.000. A spanne sono 8 etti, che naturalmente non vogliamo che marchino il nostro ritorno al lavoro. Se uno fa un conteggio e cerca di distribuire queste extra calorie, a cui tutto sommato non vogliamo rinunciare, perché poi sono piacere di stare insieme, piacere della tavola, ne abbiamo bisogno, abbiamo tutti assolutamente bisogno anche di aspetti positivi, si può calcolare approssimativamente che ciascuno di noi dovrebbe neutralizzarle, e questo è il concetto della regola del 5, bruciando ogni giorno tra la vigilia di Natale e l'Epifania 5 calorie in più per ogni chilo di peso corporeo, il che vuol dire per una persona di 75 kg, un uomo circa 400 calorie, e 300 per una donna di 60 kg. Perché è un peso differenziato? Perché in realtà abbiamo immaginato che anche l'extra calorico fosse differente, che quindi 5.000 calorie in più fossero la media tra le 5.500 di un uomo, che possono arrivare a 6.000, e magari le 4.000-4.500 di una donna. Ecco, mi piace questa regola del 5, perché il pensare che bastano 5 calorie in più per ogni chilo di peso a evitare di farci, no, arrivare a gennaio con la pancetta, mi sembra un obiettivo facilmente raggiungibile. È ragionevolmente raggiungibile, naturalmente dobbiamo metterci un po' in movimento e fare qualche cosa in più, perché altrimenti è chiaro che il conteggio alla fine non può tornare. Direi che ci sono due possibilità: la prima è di affrontare il problema di petto immaginando un'unica soluzione di esercizio fisico al giorno che risolve tutto, però questo è un po' complicato, perché diciamo che potrebbe voler dire camminare per esempio di buon passo un'ora e un quarto al giorno, che vuol dire qualche cosa che può essere un po' duro da infilare in questo periodo, la temperatura è fredda. Magari qualche giorno nevica. Perché questo approccio è teoricamente risolutivo, ma in realtà secondo me è poco difficile da applicare. Invece dobbiamo spalmarlo nel corso della giornata, tenendo conto che per molti di noi ci sono più occasioni per stare a casa dal lavoro e quindi si possono fare delle cose in più. Per esempio, 10 minuti di ginnastica a terra valgono un centinaio di calorie. Sì. Le biciclette possono essere spolverate e sottratte alle loro utilità di solito molto ridotte, e un quarto d'ora di bicicletta, facendola tranquillamente senza fare molto faticoso, magari alla mattina prima di iniziare la giornata, sono 125 poi scusi professore, proporrei, dato che magari molti di noi durante le vacanze di Natale saranno a casa e si approfitta proprio delle vacanze per mettere un po' a posto la casa, facciamoci aiutare anche dai nostri mariti a spostare quel mobile, a tirare su magari i tappeti, a fare le pulizie di fino, perché professor Poli, vero che aiuta? Si bruciano le calorie, si sollevano le mogli, ecco, e noi siamo tutti felici. Professor Poli, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Arrivederci, buona giornata a voi. Professor Colombo, invece il nostro fegato sarebbe uno sportivo, perché l'attività fisica piace molto al nostro fegato, perché? Ma perché con l'attività fisica si bruciano gli eccessi di calorie e tendenzialmente si impedisce l'accumulo dei trigliceridi di cui sopra. I trigliceridi per molti anni sono stati da noi considerati degli ospiti innocui della cellula epatica, oggi c'è un corpo di evidenze scientifiche e sperimentali che in modo inoppugnabile ci ha dimostrato che possono scatenare reazioni di infiammazione. E questa è la ragione per cui ogni 100 persone che hanno steatosi ce ne sarà una che purtroppo procederà costruendo una malattia cronica infiammatoria del fegato che esita nella cirrosi o peggio. E quindi questo è il motivo, se vuole statisticamente piccolo, ma se va corretto e moltiplicato per il gran numero di italiani che hanno la steatosi, genera un numero di potenziali pazienti con malattie croniche vere del fegato capaci di esitare in cirrosi. Da qui è nato l'allarme, se vuole, sulla steatosi, che di per sé 99 volte su 100 è infatti benigna. 800 24 00 24, tra poco naturalmente consigli, ricordatevi anche che abbiamo il regalo per voi, ma mi dicono che devo dirlo solo all'ultimo, adesso il consigli sul traffico e poi il professor Colombo resta con noi e quindi a vostra disposizione chiamando il nostro numero verde. Essere e benessere. Andrea, buongiorno da Bologna, benvenuto. Buongiorno, grazie e complimenti per la trasmissione. Senta, molto velocemente, ci devo parlare di fegato, io ho avuto poco tempo fa, io sapevo che non fa male il fegato, comunque io avevo un fastidio proprio sotto lo sterno dalla parte destra. Sì. E il medico mi ha visitato e mi ha consigliato un'ecografia. Sì, da lì. Adesso, ecco, io purtroppo non ho il referto, comunque mi hanno trovato il fegato un po' ingrossato. Sì. Però io premetto, faccio attività sportiva, ho un'alimentazione molto regolare, mangio molta frutta, verdura. Insomma, fa tutte le cose per bene e il suo fegato si è ingrossato. Ecco, l'ecografista mi ha detto che non è una cosa da preoccuparsi, però certo. Io volevo capire. Però lei ha detto, che cosa si deve fare? Professor Colombo, ingrossa e ingrassa. Io vorrei dare anche una spiegazione, ma anche dei consigli pratici ai nostri ascoltatori, perché poi sempre per delle malattie di fegato molto particolari ci sono delle buone notizie, per cui vorrei andare anche alla ricerca. Professore. Allora, le celluline epatiche sono di aspetto cuboidale, quando si gonfiano di olio, di trigliceridi, ingrassano, diventano sferiche e voluminose. Questo determina, se lo moltiplica per 10 o 50 miliardi di cellule, un ingrossamento del fegato. Il fegato di solito non produce dolore, però è avvolto da una capsula molto sottile che si chiama glissoniana, che è sensibile alla distensione, quindi quando il fegato si distende produce una dolenzia spontanea o anche alla palpazione. Bisogna capire se il nostro ascoltatore ha una diagnosi certa di steatosi, allora potrebbe sottoporsi ad un esame banale e non invasivo. Sentiamo bene. Che i miei colleghi di Bologna fanno bene come noi a Milano, si chiama FibroScan. È una sonda uguale a quella dell'ecografo che emette una piccola vibrazione fisica. Sì. Un occhio ecografico segue il percorso di questa vibrazione e la traduce in numeri che significano resistenza del fegato al flusso della onda, che in parole povere misura la durezza del fegato. Se questo gentiluomo ha dei valori normali compresi tra 2 e 6, significa che ha un po' di grasso nel fegato, sì, come molti hanno, e nessun problema clinico che si sta formando. Viceversa, se per caso ha dei numeri alti, significa che quel fegato si sta anche infiammando, e allora è bene che consulti uno dei bravi epatologi di Bologna, e Bologna ne ha molti, sì, che l'aiuta con l'esercizio fisico che già fa, con la dieta e con ulteriori esami, sì, a comprendere se ha, o come io spero, non ha un problema clinico. Molto chiaro. Professor Colombo, dedichiamo gli ultimi minuti della trasmissione ai passi avanti che la ricerca ha fatto e ha permesso di formulare delle terapie che hanno rivoluzionato la cura di alcune malattie del fegato in particolare. Sì, due malattie. Allora, l'epatite cronica virale B, che nel mondo affligge 400 milioni di persone e che noi stiamo sconfiggendo con un programma di vaccinazione dei nuovi nati, per la quale l'Italia è pioniere nel mondo. Diciamolo. Mm. Assolutamente, c'è stato recentemente riconosciuto un ruolo di leader nel mondo tra i paesi occidentali. Siamo stati i primi a proporre e a attuare un programma di vaccinazione di massa dei nuovi nati e dei dodicenni, per cui gli italiani tra 0 e 32 anni sono difesi contro l'epatite B, sì, che invece nelle popolazioni di età maggiore può colpire soprattutto attraverso i rapporti sessuali, e noi li vediamo. Però siamo capaci di curare anche i pazienti, e ancora ve ne sono circa 600-700 mila in Italia, che hanno epatite cronica B, perché abbiamo dei farmaci fantastici che cancellano l'infezione e progressivamente sono anche capaci in alcuni di portare a totale guarigione, e comunque arrestano. Ecco. Ma forse lo sviluppo più stratosferico sta per arrivare nell'ambito dell'epatite virale C, sì, dove siamo capaci invece di guarire oltre la metà delle persone, però utilizzando l'interferone che si inietta una volta alla settimana e che ai nostri pazienti causa qualche problema. Invece? E invece nell'arco di 2 o 3 anni avremo a disposizione delle cure tutte orali, composte da 2 compresse al giorno, che nell'arco di 12-24 settimane sono capaci di sconfiggere le infezioni sostenute dal genotipo 1B, il più diffuso in Italia, e che attualmente è guaribile solo nella metà dei casi con le cure a base di interferone. Quindi è un grande successo. Ecco, io la ringrazio, professor Colombo, perché ci stiamo rivolgendo a delle persone, questo messaggio arriva a delle persone per cui avere una terapia di questo tipo rappresenta veramente il regalo. Allora, siamo in chiusura, come anticipato, prima di chiudere un regalo per voi, dovete mandarmi al 349-238-6666 un messaggio con Natale, buon Natale, auguri, mandatemi un messaggio con queste 3 parole chiave al primo ascoltatore che raggiungerà il nostro indirizzo di via SMS, uno smart box, pensate, gocce di bellezza, niente meno, quindi in attesa del vostro primo SMS al primo ascoltatore, eccolo qui, sta arrivando. Sto aggiornando, arriverà a casa questo regalo. Tra l'altro, questa sera alle 21 alla Sala Collina qui a Radio 24 c'è la recita di Natale di Chiedo Asilo. Il titolo è Babbo Natale esiste. Ci sarà il cast di Chiedo Asilo, Babbo Natale, gli alberi, le renne, e poi naturalmente ci sarete voi. Prenotatevi mandando una mail a chiedoasilo@radio24.it. Allora, professor Colombo, io devo salutarla, io la ringrazio per le buone notizie che ci ha dato e soprattutto per le indicazioni che ci ha fornito, molto chiare, per prenderci cura della nostra salute e del nostro benessere. Professor Colombo, buon Natale anche a lei. La ringrazio, buon Natale a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, io intanto sto segnalando, l'elenco degli ascoltatori è lunghissimo, io devo però salutarvi ringraziando Carmelo Lauricella in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi e Miriam Lucchetti in redazione. Vi raggiungeremo, perché io sono senza occhiali, non leggo gli SMS, gli occhiali non li trovo più, li troverò prima di domani, non preoccupatevi, domani come sempre vi aspetto qui. Essere e benessere.